I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Vorrei parlare di macchine utensili, cioè di quelle macchine che servono a fare altre macchine, dei robot in poche parole, dove l'Italia è tra i leader mondiali nella loro produzione. Il dato del quarto trimestre, diffuso ieri dall'associazione di categoria che si chiama UCIMU, segnala che gli ordini sono cresciuti complessivamente quasi del 20%. Ciò significa il 19,3% per gli ordini provenienti dall'estero e il 18,8% per quelli provenienti invece dall'Italia. Nel complesso, sempre per stare ai numeri, i ricavi sono cresciuti del 3% sull'anno prima e l'export è aumentato del 4%. Fin qui i numeri che, come sempre, dicono e non dicono, ma ciò che importa oggi è segnalare che è aumentata la domanda interna e che 800 milioni di fatturato aggiuntivo del 2014 viene proprio da investimenti fatti da imprese italiane che hanno deciso di cambiare i loro macchinari per la produzione. Ed è da più di 6 anni che il settore non conosceva un andamento così costante e così in crescita come quello segnato da ormai 5 trimestri consecutivi. È anche il frutto di una buona legge, la cosiddetta legge Sabatini, che incentiva, come fanno in altri paesi, gli investimenti in tecnologie e in macchinari. È una misura concreta di vera politica industriale che non fa discriminazioni, perché ad esempio non è un aiuto limitato a un solo settore come accade in altri casi, ed è una scelta strategica perché incentiva la modernizzazione del nostro assetto produttivo, che è il primo passo per mantenerlo competitivo ed efficiente. Se le aziende italiane comprano macchinari nuovi, significa che stanno investendo e che vedono un futuro positivo. Significa anche che lavorano a pieno regime le moltissime piccole e medie imprese fornitrici di singole parti di macchine tanto complesse. Il boom di ordini all'estero è una conferma che queste produzioni del Made in Italy sono un'eccellenza planetaria, ma il fatto che anche in Italia questo mercato sia ripartito con tanta forza è un modo per dirci che la recessione sta davvero finendo. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. Effetto Grecia sui mercati? Probabilmente sì, probabilmente no. Che cosa significa in pratica? Da 2 giorni vediamo le borse e i titoli di Stato andare su e giù in un'altalena che sembra quasi anticipare l'avvio di una correzione per le borse. In realtà, a ben vedere, la crisi greca rimane ancora circoscritta e il suo effetto sui listini azionari è ancora molto limitato. Pochi sanno infatti che sugli indici di borsa europeo ce ne sono ben 22 in rialzo dall'inizio di gennaio e solo 3 in ribasso. Se poi misuriamo la performance sulla base dei 12 mesi, vediamo addirittura che i listini in rialzo sono 24 e solo 3 sono in ribasso. Che cosa sta succedendo sostanzialmente? C'è un riposizionamento di denaro, c'è l'occasione per fare cassa dopo 8 anni di corsa che hanno portato sostanzialmente i titoli delle borse europee ai massimi di 7 anni e addirittura ai massimi storici quelli americani. C'è un po' di nervosismo? Sicuramente. C'è l'incertezza che domina, che è quella politica. Riuscirà questa incertezza a spegnere l'euforia dei mercati finanziari? Probabilmente no, soprattutto grazie all'ombrello di Draghi e quei 1.100 miliardi che hanno posto sull'Europa una sorta di protezione monetaria che dovrebbe consentire di dare tempo all'Europa e alla Grecia di trovare un accordo. Sia chiaro comunque che tutto questo si regge su un filo molto sottile. Quale? Che la Grecia non faccia degli strappi eccessivi. Strappi eccessivi oggi significa andare a un tavolo negoziale chiedendo tutto e cedendo niente. Oggi cedere per la Grecia significa far sì che si possa rinegoziare il debito senza chiedere di cancellarlo. Le generazioni, di padre in figlio, ma anche di Stato in Stato o direttore in direttore, sono sempre responsabili degli atti dei propri predecessori e anche la Grecia deve assumersi questa responsabilità. Come del resto lo stiamo facendo noi. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.